questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Voi vi aspettavate a questo punto, magari anche Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, vi aspettavate subito la voce di Allegri magari, che dice Balotelli è una riservaccia, o magari il racconto con un po' di musica dei gol di ieri sera. Ebbene no, perché per me la notizia del giorno è un'altra, questa, sentite. Ryan Lochte, nuotatore americano tra i più forti del mondo, della storia, 11 medaglie olimpiche, 5 d'oro, 15 titoli mondiali, è stato protagonista dell'infortunio più incredibile, credo, della storia dello sport, uno dei più strani. Era per strada, stava camminando, una fan, una ragazza, una teenager, l'ha riconosciuto, gli è saltata in braccio, questo è caduto dal marciapiede, si è fracassato un ginocchio. Distorsione dei legamenti, in alcuni casi, in altri siti si parla di rottura dei legamenti. Morale, 5 mesi di stop per Ryan Lochte, causa abbraccio troppo focoso. Vabbè, dai, ve la faccio sentire. Allegri. No, non è assolutamente un problema. Balotelli anche stasera in due o tre situazioni ha fatto cose importanti, sia a livello fisico che a livello tecnico. Il giocatore quando fa delle brutte prestazioni è normale che possa avere una giornata di riposo o possa venire in panchina. Io credo che Balotelli abbia delle qualità straordinarie, ma credo che Balotelli abbia molto da migliorare nel contesto di una squadra. Questo credo che, visto che è giovane, visto che, ripeto, e nessuno se lo ricorda, Balotelli per la prima volta a 23 anni gioca a titolare e è un giocatore importante per una squadra, perché fino a questo momento Mario all'Inter è giovane, nei 2 anni e mezzo di Manchester City ha giocato non tantissimo e spesso dalla panchina. Pierluigi Pardo, ciao. Hola, come va? Benissimo, manca solo una piccola fan che vola in braccio a Balotelli e gli spacca una gamba. Manca solo questo. Ma a chi non è capitato di romperci un ginocchio per l'abbraccio delle fan? Ma a chi di noi? Anche a qualche ascoltatore magari, 800 24 00 24. Senti, ma si può fare a meno del tuo miglior giocatore per un tempo regalandolo agli avversari? Perché per me di questo si tratta. Ma secondo me sì, nel senso che secondo me adesso poi chiaramente dopo si ragiona con il risultato e chiaramente il risultato non è positivo, anche se in realtà il vero paradosso è che non è positivo, hai perso 3-1, ma quasi non ti dico che c'è da rallegrarsi, ma insomma poteva anche andare peggio, ecco, diciamo così, da quelle che potevano essere le aspettative. E secondo me non era sbagliata la scelta di Allegri, era quella di fare un primo tipo di sofferenza e pedalare e poi... Ma scusa Pier, ma perché avere un giocatore... Secondo me è stato il miglior Milan che io ricordi al Camp Nou, compreso quello del 2-2 con il gol di Pat e Thiago Silva, eccetera. Perché? Sì. Perché secondo me ha interpretato bene la partita. Però perché mettere un giocatore che non fa la minima paura agli avversari, che alla fine, come dite a Roma, non struscia pallone? Sì, struscia. Ma no, in realtà all'andata la coppia Kakà-Rubinho aveva funzionato. No, io onestamente la scelta di Allegri la condivido, nel senso che poi, ripeto, dopo si parla con il risultato e con il senno di poi e si può dire tutto il contrario di tutto, ma secondo me non era un'idea sbagliata e tutto sommato Balotelli è entrato bene in partita. Cioè sì, c'è stato un momento nel secondo tempo che il Milan aveva dato la sensazione negli spazi, negli avanzi di partita che il tiki-taka del Barcellona concedeva, di poter creare opportunità. Ne ha avuta una sola vera, nata da un bello strappo di Balotelli con il tiro di Kakà sul fondo. Però a me onestamente non è dispiaciuto molto il Milan. Sicuramente gli episodi al primo tempo hanno condizionato la partita e secondo me non era una scelta sbagliata. Poi ripeto, che alla fine è andati 3-1 e quindi il dibattito finisce di 3-1 con un rigore che non c'è, con un gol in fuorigioco, con quell'autorete fortunosa di Piqué. Mettiamoci tutti questi episodi, chiaro che sì, è certo, difficile stabilire il confine dei meriti che ci sono stati, secondo me, nel Milan di ieri sera, ripeto, per l'interpretazione della partita, per come tutto sommato si è difeso senza troppo affanno, e i demeriti di un Barcellona che non è più quello del tuo benamato tiki-taka, è un Barcellona diverso che ha un Messi un po' sgonfio, eccetera eccetera. Imbarazzanti le immagini di Galliani e di Barbara ieri sera? Ma io posso dirti, dimmi, imbarazzanti, cioè non è che pensare, no, perché imbarazzanti? Si riferisce alla presunta gaffe del gol non visto? No, a me sembra invece, onestamente, posso dire una cosa, che dopo tutto quello che c'era stato a livello, ovviamente nato non per caso, non è che ce lo siamo inventati dai giornalisti, però insomma, chiaramente dopo quelle dichiarazioni, quelle mezze smentite, c'era tutto il dibattito da separati in casa, hanno visto la partita a distanza di 10 centimetri. Sì. Senza guardarsi una volta. Hanno anche sorriso a un certo punto, ha fatto le battute, insomma... Io non riesco a vederci il caso. Che dovevano fare? Dovevano fingere meglio di essere i migliori amici, oppure dovevano arrabbiarsi e litigare pubblicamente? Hanno fatto quello che secondo me delle persone di buon senso fanno in una situazione di quel genere. Sono lì rappresentando il Milan e l'hanno rappresentato bene. Poi quello che è il dibattito, che poi, ripeto, io penso, al di là di tutto, che sia un dibattito costruttivo sul futuro del Milan. Poi si può discutere sul fatto che sia venuta fuori la cosa, sulla dichiarazione, certamente non aiuta, perché poi i panni sporchi si lavano in famiglia. Certo, in questo momento la polemica non è da Milan, Piero. Però la polemica, onestamente, non mi sembra, da quello che ho capito, una polemica basata sul nulla. Cioè non mi sembra una sfida fra l'ego di uno e l'ego dell'altro. Mi sembra una discussione costruttiva, in certi momenti anche violenta, su quello che dovrà essere il Milan del futuro. Quindi cerchiamo di vederla anche... secondo me in termini positivi. Ieri che dovevano fare? Hanno fatto quello che... No, ma il discorso è che nel Milan di un tempo queste cose non uscivano e quelle immagini non erano così morbosamente ricercate, eccetera eccetera. Ovviamente parleremo anche di più tardi di quanto pesa Higuain nel Napoli in questo girone meraviglioso. Vi faccio subito una domanda, un quizzone, ma facile però, Chi è stato l'unico giocatore italiano a segno in questo turno di Champions League? Ho fatto pure un tweet facile, ieri, è troppo facile. Lasciamo che indovini, no? 80024, 0024, strada e poi torniamo qui. Tutti convocati. Adesso perdonami per Luigi Pardo, ma io voglio ritornare sulla notizia del giorno che mi fa impazzire. Ryan Lochte. Allora, la prima volta fu con lo skateboard, la seconda invece è stato con lo scooter, ma poi è arrivato anche il cane e inseguendo il suo cane si è slogato una caviglia, poi si è fratturato una spalla giocando a nascondino con il fratello, un menisco ballando la breakdance e infine stiramento del collaterale mediale del ginocchio allungandosi per prendere il cellulare mentre era alla guida e il telefonino era sul sedile posteriore dell'auto. Quindi questo infortunio con la fan che gli casca tra le braccia is nothing. Più felice della mia vita. Lochte, you know, Olympic champion, Olympic star, three-time Olympian, suffered a torn MCL and a sprained ACL. How? He caught a teenage girl who was so excited to meet him, she jumped into his arms. He caught her, they fell, his knees slammed into a curb. She'll make you love him, yes she'll leave. Baby, yeah, alone to grieve. She called him mine, baby. Tu sai, Pierluigi Pardo, che anche noi abbiamo un grande nuotatore, tre volte campione europeo, due volte vicecampione mondiale, che si è infortunato nello stesso modo. Lo so, è il problema di noi molto belli. Salutiamo, lo abbracciamo? Lo abbracciamo, Fabio Scozzoli, ciao! Ciao, ciao a tutti! Anche tu, no? Ti sei fracassato ginocchio destro per l'abbraccio di una fan. Uguale come Rocky. No, non proprio così, almeno io mi stavo divertendo. Cosa stai facendo? Stavo allenando, però. Ah. Stavo giocando a frisbee. Stavi giocando a frisbee? Sì, sì, a ultimate frisbee. Ma sei peggio di Rocky. Stavo facendo una partita con gli amici. Cioè, in allenamento, la parte della preparazione. Eravamo in ritiro prestagionale, una settimana all'Isola delle Nazioni, e giocando a frisbee ho saltato. Quando sono atterrato non sono idea di come si piede il ginocchio, e il ginocchio mi ha vissuto un male fulminante. Ho fatto la risonanza e ho crociato rotto e mi dischi andati. Però sai che anche Pierluigi Pardo si è infortunato al collo cambiando la ruota di un'auto, vero Pier? Sì. Genta mi ha cambiato la gomma la settimana scorsa, è stato un momento di altissima radio, proprio. Abbiamo fatto anche delle foto, sì, Genta straordinario, sudatissimo, io imbarazzato, non sapevo che fare, però in realtà dovremmo fare una volta una rubrica, una rassegna degli infortuni più assurdi della storia dello sport, perché ogni tanto succedono queste cose. Ricordo Marco Ricci, che era un pivot del Basket Roma, che si fece male dentro la doccia negli anni in cui giocava nel Banco Roma, o comunque non so che sponsor ci fosse, a metà degli anni 80. Insomma, la storia dello sport è piena anche di questi episodi qui, prima, no? Sai Fabio Scozzoli l'abbiamo convocato non solo per questo, ma anche perché è un milanista accanito e competente. Anche lui si ricorderà l'infortunio di Dida alzandosi dalla panchina, colpo della strega. Te lo ricordi, Fabio? Quello è stato il top. Sì, alla grande, la Dida. Per quanto sia stato, penso, uno dei migliori portieri al mondo, almeno in quel periodo era il migliore, parlo del periodo 2003-2004, quando veniva la vittoria Champions, poi in campionato, è stato anche un po' una comica. Sì, molto, molto comico. Senti, andando alla cronaca, tu avresti lasciato fuori, come Pardo, perché il suo pensiero è questo, avresti lasciato fuori il numero 45 ieri al primo minuto? Sì. Sì, sì? Io ero a San Siro sabato sera, te lo dico, quindi sì? Ho visto una partita purtroppo inguardabile, e soprattutto i suoi atteggiamenti che non sono stati troppo positivi, quindi anche solo per dargli una scossa, e mi sembra che sia anche servita, perché quando è entrato poi ha fatto quello che doveva. Ma Pierluigi, secondo te che cos'è? Rieducazione, reinserimento, affidamento ai servizi sociali, punizione? Spogliamo per una volta Balotelli da tutto ciò che è extracalcistico, no? Quindi dai discorsi moralistici, dal fatto che bisogna bastonarlo oppure coccolarlo. Cioè, secondo me Allegri e Sassotti hanno fatto una scelta tecnica legata al tipo di partita che il Milan voleva giocare, che era nel primo tempo una partita di sofferenza, sacrificio e corsa, e poi con la speranza di riuscire a rimanere in qualche modo in corsa, avere la possibilità di un giocatore fresco e magari sì un po' motivato con una scossa dal punto di vista psicologico per fare la differenza nel secondo tempo. E ripeto, poi la partita è finita 3-1, ma alla fine non è andata nemmeno così lontana da quelle che erano le speranze di Allegri, perché il Milan nel primo tempo ha fatto una discreta prestazione difensiva, discreta, poi ovviamente c'è stato il calcio di rigore, c'è stato il gol in fuorigioco e il gol casuale, abbastanza casuale, del 2-1 con l'autogol. Però insomma, diciamo che alla fine il risultato, un gol di scarto alla fine del primo tempo ci stava. Sì. A quel punto avevi la possibilità di Balotelli contro una difesa un pochino meno fresca. Insomma, secondo me aveva un suo fondo di logica, però toglierei i discorsi appunto moralistici o rieducativi. No, ma questo, cioè, questo di sicuro lo facciamo ogni volta. Tecnica, lo facciamo ogni volta, perché io voglio valutarlo per quello che è in campo, e secondo me rimane il miglior giocatore del questo. Milan. Non si è messo a fare l'educatore o lo psicologo, si è messo a fare l'allenatore, e secondo lui questo tipo di soluzione ci stava, e secondo me ha una sua logica. Sì. Fabio Scozzoli, se Allegri non vince, o Milan non vince a Verona, che succede secondo te? Ma bisogna dare una scossa, purtroppo l'unica cosa che si può fare secondo me è mandare via Allegri, cioè, purtroppo, perché dico a me sinceramente come avrebbe piaciuto, le colpe dice lui stesso, le ha anche lui, però non sono solo sue, però il problema è che in un momento così a metà stagione che scosse puoi dare, l'unica cosa che puoi fare è cambiare la guida. Pier, sei d'accordo? Cioè, ma pensi che potrebbe succedere nel caso in cui il Milan non dovesse fare punti a Verona col Chievo? Secondo me è sempre abbastanza improbabile, però però insomma a un certo punto se dovesse continuare, non lo so, se dovesse pareggio a Verona non lo cattano, se perde a Verona credo ancora di no, però certamente insomma se continua 3-4 partite senza scossa, tra l'altro io ti dico la verità, la situazione del Milan nel girone è vero che è abbastanza comoda perché il Milan rimane secondo, però in questo momento con l'ansia della prestazione che ha il Milan, secondo me neanche il Milan se la porta da casa la qualificazione, perché è vero che adesso le rimangono le due partite più semplici del girone, ma insomma adesso vai a Glasgow, sì, in questa condizione psicologica dove fare almeno un pareggio, e poi l'ultima partita contro l'Ajax, sì va bene, il Milan è più forte dell'Ajax, giocherà in casa, però insomma bisogna secondo me nel prossimo mese cambiare quantomeno l'umore, quantomeno il clima e le sensazioni psicologiche della squadra. Ma vedi che a questo punto, Pier, per cambiare qualcosa, allora ha ragione Fabio Scozzoli, la scossa vera arriverebbe da un cambio della guida tecnica, perché la situazione si è troppo incarognita secondo me a questo punto, è difficile risolverla in maniera indolore. Fabio? Sono d'accordo anche con quello che dice Pier, no? Che bisogna cambiare l'umore, però purtroppo io ho seguito le partite del Milan quest'anno, anche prima c'era l'umore, c'era la voglia, la squadra lottava, però il gioco sinceramente io l'ho sempre visto poco, si è trattato sempre una squadra con una qualità più bassa di quella che in realtà i giocatori dovrebbero avere. Fabio, ti ringrazio, come stai con quel ginocchio al di fuori della burla su Lotti? Va bene, va tutto come deve andare, sto seguendo un buon programma, io ho cominciato a ruotare già appena mi hanno tolto i punti, quindi 2 settimane e mezzo dopo l'intervento, e adesso va bene, sto ricominciando a mettere su il disco e andiamo avanti così. Grazie Fabio, ti aspettiamo a Tiki Taka, Fabio, grazie a voi. Fabio Scozzoli a Tiki Taka prossimamente. Sì. Facciamo anche, se ti devi allenare, ti facciamo anche una corsia così durante le pause pubblicitarie e fare un paio di tracciati. Allora, ma uno che di calcio capisce sul serio, eh? Sì, oggi aspettiamo gli ascoltatori. 800 24 00 24 numero verde, i messaggi 349 238 6666, particolarmente simpatici i messaggi di oggi, ma ormai è abbastanza una costante. Borsa? Poi torniamo con gli ascoltatori naturalmente. Molti hanno indovinato, ma era facile, l'unico giocatore italiano a segno in questo turno di Champions. Dopo la borsa riveliamo l'arcano. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Bene, sì, molti hanno indovinato, l'unico italiano a segno del turno di Champions è proprio lui. Attenzione a questo lancio per Piovaccari, pallone buono, Piovaccari, 1-0, Steaua, Piovaccari partito in posizione regolare. Gol a Basilea e poi è finita 1-1 tra il Basilea e la Steaua Bucarest di Piovaccari. Pierluigi Pardo, come hai visto, non Piovaccari ma Messi ieri sera? Ma l'ho visto bene, insomma, bene. Fa abbastanza ridere, nel senso che fa abbastanza ridere sentir parlare di critiche nei confronti di giocatori che sono proprio... No, cioè c'è un piccolo calo di pressione, ci può essere un piccolo calo di velocità in certi momenti, ma insomma fa parte della normalità. Per me è una conferma della umanità di questi qui, cioè... almeno la dimostrazione del fatto che sono umani. Detto certamente questo, sono messi 6 gol in 3 partite, ma ti dico, a me il Barcellona è molto più simpatico ora di quando non lo fosse con Guardiola, e poi c'è Neymar che mi fa impazzire, perché il vero valore aggiunto in questo momento del Barcellona è proprio lui, forse in questo momento di leggera flessione di Messi, che poi sono tutte abbastanza pippe mentali, perché hai ragione, come si fa a discutere un giocatore come quello, però Neymar è impressionante. Sì, Neymar è impressionante, no, ma ti dico che anche secondo me tutti i discorsi che sono stati fatti sul Barcellona, che gioca un po' meno di chitarra rispetto al passato, sono discorsi così, perché giustamente dobbiamo riempire le trasmissioni e i giornali, nel senso che poi ieri comunque il Barcellona ha dominato il possesso di palla, ha quel tipo di atteggiamento, quella coperta di Linus, quel modo di giocare, che quindi se lo portano dietro come un marchio di fabbrica, non è che se la gente sa palleggiare e ha l'abitudine comunque a muoversi molto senza palla cambia, perché l'allenatore gli dice di fare dei piccoli correttivi. Mi sembra rispetto al passato si cerchi un pochino di più la giocata uno contro uno, sia un pochino meno sistematica l'aggressività sul, sul portatore di palla appena si perde il pallone, quindi si sta un filo più bassi quando si perde palla, quando raramente il Barcellona perde palla rispetto al guardiolismo. Ma stiamo parlando veramente di Lana Caprina, di dettagli, il gol del 3-1 del Barcellona è un gol di tiki-taka purissimo, purissimo, le azioni principali vero. Del primo tempo del Barcellona sono proprio il classico, classico possesso palla narcotizzante che ti addormenta e poi l'imbucata veloce. Sì, l'imbucata veloce ne abbiamo viste tre o quattro nel primo tempo fantastiche, compreso un passaggio di una pennellatina di esterno proprio del numero 10 Blaugrana, dai, lasciamo stare. Bravissimi gli ascoltatori che ricordano qualche infortunio strano come Luca. Chi è che è caduto? È caduto Pardo. Speriamo non si sia fatto male, adesso lo recuperiamo. Allora Luca scrive: un mio amico pallonotista si ruppe il naso recuperando il pallone finito nella piscinetta dei bimbi, si tuffò di testa e non si accorse dell'acqua bassa. Poi c'è Eraldo da Napoli. Canizares, bravo Eraldo. Canizares ai mondiali di Corea si è rotto il metatarso con una bottiglietta di dopo barba e addio mondiale. Poi parliamo anche di Gattuso che al mensile francese SoFoot ha detto cose abbastanza dure su Zamparini e qualcosa di interessante anche su Berlusconi, ma ve lo racconto più tardi. Marco Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo fare una domanda a lei, se è possibile. Sì. Lei perché squadra tiene, per curiosità? Per nessuna. No. Io dico la mia opinione da esterno, premetto che sono interista, però noto che lei fa una commissione della trasmissione, però ogni volta che cade sull'Inter e sul Milan ha giudizi differenti. In che senso? E spiego anche perché. Facciamo un esempio di oggi: ha detto che il Milan ha fatto la più bella partita a Barcellona negli ultimi anni. Sì, e questo è preoccupante per il Milan. Sì, no, dico, ha passato la metà campo dopo 33 minuti di gioco. Ok? Quando ha spiegato, raccontava l'Inter di Mourinho che andò a Barcellona e prese un'espulsione ingiusta perché Busquets fece simulazione, abbiamo fatto catenaccio, abbiamo vinto per fortuna. Questo chi l'ha detto? No, lo diceva lei tempo fa. Io giuro che non ho mai detto una cosa del genere. Ho sempre detto che la partita dell'Inter a Barcellona è stato un capolavoro. Ci sono, credo, diverse. Capolavoro di catenaccio. No, ma che di catenaccio? È stato un capolavoro tattico e fisico. Cioè, è stata una partita di un'intensità mostruosa. E questo è sempre stato il mio pensiero. Non c'è neanche una contraddizione nel fare catenaccio in 10 contro 11. Assolutamente no. Se ti basta perdere 1-0. Per cui, posso dire una cosa adesso? Certo, devi. Se mi mischio in questa questione. Il mondo è pieno di gente che ti dice che tifi per questo. Io l'altro giorno ho fatto la telecronaca della partita della Juve e come sempre faccio quando faccio una partita italiana, al di là del fatto di raccontare quello che vedo, cioè secondo me se c'è un rigore c'è un rigore, se non c'è un rigore non c'è un rigore e se la squadra gioca male lo dico, però è chiaro che l'enfasi è per la squadra italiana. Mi sono arrivati commenti di persone che mi hanno detto ti farò troppo per la Juve, commenti di persone che mi hanno detto che ho urlato troppo ai gol del Real, cioè alla fine chi la vuole cosa, certo, chi la vuole certo, cosa. Certo, certo, secondo certo, me, chiaro così. Gente, io, qualsiasi altra persona che fa questo lavoro lo giudichi negli anni, in 10 anni di carriera, 20 anni di carriera, se c'è una sostanziale credibilità nei giudizi che uno esprime. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo su una valutazione. A me quella cosa di ieri che hai detto mi sembra vera e mi sembra un paradosso, no? Nel senso che comunque che la migliore partita delle 4 giocate dal Milan negli ultimi 26 mesi a Barcellona sia stata quella di ieri, secondo me ci può anche stare come ragionamento, figuriamoci le altre. Appunto, no, ma questo è quello che dico, ecco. Ma poi ti assicuro rispetto a quel 2-2 che ricorderete col gol di Pato al 20° secondo e il pareggio di Thiago Silva al 90° che fu un monologo del Barcellona, ieri il Milan è uscito di più, sicuramente è uscito di più. Ha avuto qualche occasione in più, nel secondo tempo non era così scontata la vittoria del Barça. No, ma quella partita fu realmente frustrante per un Milan che era comunque molto diverso da questo e ciò rende anche è un parametro di valutazione del Milan in questo momento. Se la sua miglior partita a Barcellona è stata questa e più di così non può fare, vuol dire che c'è da intervenire in maniera importante forse. Gianluca da provincia di Pordenone, lei per chi tiene? Così tagliamo subito la testa al topo. L'Udinese. Sì, Mi sembra uno di quegli anni non brillantissimi per l'Udinese. Vabbè, non possiamo fare. No, ma ci mancherebbe. Però sa, l'Udinese quello che hanno già fatto è già grande. Attenzione, pure l'anno scorso l'Udinese non era partita forte e poi ha accelerato nella seconda metà, quindi attenzione. Ma i numeri secondo te Piero l'Udinese per accelerare? Oppure è una squadra che può essere anche in questo caso passibile di revisione, magari con Guidolini da tanto tempo, Di Natale molto avanti negli anni, ora anche infortunato. Ci sono cinque squadre, sei con il Verona, che stanno correndo veramente tanto, quindi secondo me il problema quest'anno per il Milan, per l'Udinese, per la Lazio, per le squadre che hanno giustamente l'ambizione di recuperare, è che quest'anno si scontrano con 5-6 squadre che veramente hanno un ritmo molto molto veloce, quindi o si sbrigano subito o diventa complicato. Ma per il resto, insomma, che l'Udinese possa sbocciare come negli altri anni io non lo escludo. Certo, è una squadra che ogni anno chiaramente sappiamo fa un patto col diavolo, che è quello di vendere dei giocatori, sistemare il bilancio. È un esempio politica perfetta. È un esempio virtuosissimo. È chiaro poi magari che qualche volta ti ci piacerebbe sognare, ma infatti i tifosi dell'Udinese si lamentano zero per questo, cioè, prendono il buono e il cattivo che arrivano. Gianluca voleva dire altro al di là di questa disquisizione sull'Udinese? Sì, io non vi riesco a seguire sempre, quindi non so se qualcuno l'ha già detto. Secondo me stranamente rischia più il Napoli con 9 punti di essere eliminato che il Milan con 5. Sì, questo è vero, ma perché il girone del Napoli è... potrebbero arrivare 3 squadre a 12 punti. Sì. Il girone del Napoli, e tra poco ne parliamo più nel dettaglio, è meraviglioso secondo me. È il girone più bello d'Europa. Cosa dici, Piero? Sicuro, ma si sapeva già prima. Insomma, questa è la dimostrazione. Tante volte diciamo il ranking, sembra no? Che il ranking sia come il buco dell'ozono, no? Una di queste cose che si dicono, ma che poi alla fine no, dobbiamo rientrare di problemi ambientali, e poi insomma invece in realtà hanno un effetto sulla vita delle persone. Ecco, l'effetto però lo vedi nel pratico, e qui vedi cosa che significa il ranking, perché chiaramente il Napoli si trova, così come si è trovato 2 anni fa, a dover compiere un capolavoro per poter passare il turno. Ha fatto 9 punti, è stata fino a questo momento sicuramente la più brillante delle squadre italiane, lo dicono i numeri e lo dicono anche le prestazioni, però ripeto, il paradosso è che Juve, Milan e Napoli secondo me oggi più o meno hanno le stesse possibilità di passare il turno. Tu dici? Il Napoli ha qualcosa in più, perché il Napoli adesso va a Dortmund con un pareggio, passa, e quindi insomma, pareggiare a Dortmund non sarà facile, anche perché loro si giocheranno la vita. I vice campioni d'Europa in casa si giocheranno la vita, quindi sarà, cioè, sì, però, chiamiamola però, pure impresa, sì, quella necessaria. Impresa, però ragazzi, voglio dire, insomma, Napoli secondo me può fargli tutta la Dortmund, cioè non mi sembra una partita chiusa. Ecco, non mi sembra, sinceramente, non per essere offensivo, non mi sembra Barcellona-Milan di ieri sera. No, questo no. Dortmund-Napoli mi sembra una partita dove chiaramente il Dortmund è favorito per il fattore campo, ma mi sembra una partita equilibrata fra due ottime squadre, dove il Napoli ha 2 risultati su 3. Allora, un piccolo vantaggio ce l'ha rispetto alle altre due, però poi paradossalmente invece la Juve, se batte il Copenaghen come penso, poi al 99% avrà 2 risultati su 3 a Istanbul, e il Milan, se non fa errori clamorosi, passa al turno. Infatti il Milan onestamente mi sembra quella messa meglio, considerato il valore delle avversarie. Strade, poi c'è Gianmario da Lodi, e torniamo a parlare di Napoli. Tutti convocati. Secondo Massimo, che scrive, sono un anti-interista ed è un dato di fatto. Come disse Jessica Rabbit, mi disegnano così. Va bene. Gianmario Dolodi, secondo lei sono anti-interista? No, non penso. Ma infatti non lo sono, ma comunque va bene. Mi piace la tua conduzione. Volevo farvi tanti complimenti e farvi tornare un po' con i piedi per terra parlando della Fiorentina. Perché quindi con i piedi per terra? Volevo portarvi questa riflessione. Non vi sembra che questi gironi, sia di Europa League, sia di Champions, siano proprio studiati per alla fine fare anche delle partite inutili? No, non quindi... credo. Cioè, anche in questo caso li disegnano così, no, Pier? Le partite inutili sono fisiologiche quando c'è una fase a gironi, che però a me piace moltissimo. Che volta successo, no? Mi pare che l'anno scorso ci fu una drammatica sesta giornata con tutti i verdetti già scritti. La sensazione per quanto riguarda le italiane quest'anno, l'anno scorso ci fu uno di due giorni, non mi ricordo se martedì o mercoledì, 8 partite su 8 che erano inutili, servivano al massimo a decidere il primo e secondo posto nel girone in Champions League. Quest'anno io credo che le tre italiane, speriamo il Napoli no, perché se il Napoli, appunto, se l'ultima partita con l'Arsenal sarà inutile, potrà essere soltanto perché il Napoli è già passato il turno. Quindi speriamo che la partita del Napoli con l'Arsenal sia un'amichevole, ma la mia sensazione è che ci potrebbero essere si gioca fino all'ultimo istante in questi gironi. Sicuramente. E il Milan anche, insomma. Poi si gioca fino all'ultimo minuto, ma si gioca fino all'ultimo minuto, per secondo me, per tutte e tre le italiane. Vedrai che finirà così. Torniamo un attimo su Napoli, per favore. Besame bevita, amami un pochito. Cagliacon a cercare ancora Panda e Higuain. All'arrasa, c'è gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, urla con quanto fiato fa in gola, urla con quanto fiato in gola tutta la nostra gioia. Lucia è mi vida. Il lancio in profondità, scatta bene, Bertens, mettila dentro, alla rete, c'è gol, c'è rete, c'è gol, c'è rete, c'è gol, c'è rete, non serviva altro che lui, il tocco dello scatenato Gonzalo Morato. Sono troppo felice della partita che ha fatto il Napoli oggi. Sappiamo di prima che era difficile, perché Marsella non ha vinto nessuna partita e andava a giocare con molta voglia di vincere e bueno, lo ha dimostrato che è una squadra difficile. Lo scrive secondo me in maniera ineccepibile oggi, come fotografo in maniera ineccepibile oggi, Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Massimo risultato col massimo sforzo per il Napoli, e Higuain conferma che quelli forti davvero fanno la differenza in Europa soprattutto. Ciao Luca. Eccomi, ho come sospetto che abbia fatto gol in Napoli. Sì, ti viene così? Gabi, dovete spiegare perché Milito parla come se non è nell'Inter. Cioè, gli argentini sono fantastici, parlano tutti uguali, sono una roba. Tutti uguali, è classico. A me piace molto sentirli parlare. Fantastico. Napoli ha un momento chiave, quelli in cui devono cominciare a giocare sul serio se sono duri davvero. Adesso questa, poi la Juventus e poi questo inferno di girone. Luca. Guarda, allora te lo dico da cronista che segue quotidianamente la Roma e non è che può nascondere una simpatia per questa squadra. Allora, il Napoli di Benitez quest'anno, ahimè, mi ricorda l'Inter di Mourinho che fece il triplete, nel senso, è una squadra che si prende un rischio, che per essere al massimo livello su due competizioni accetta a volte anche di cacciarsi in una trappola, esempio quella di ieri, dove forse poteva finire anche pari, e se finisce pari sei morto. Però dato che tu vuoi essere da corsa sia in Champions che in campionato, fai il turnover. E quello che fece Mourinho quell'anno lì, e permettendo alla Roma di Ranieri una rincorsa folle, che poi finì male ma comunque era arrivata fino al sorpasso, alternando i giocatori. Se avesse detto no, allora appunto su una cosa sola, avrebbe vinto una cosa sola. Invece c'è la voglia nel Napoli di essere protagonista in tutte e due le manifestazioni, e bravo Benitez, perché noi siamo sempre troppo abituati a fare calcoli e invece lui li fa, ma coraggioso. Mica male come titolo è Monsieur Pardo. No, perfetto. E tra l'altro però c'è anche la possibilità di poterlo fare questo turnover, perché comunque soprattutto davanti, insomma, ci sono 7 grandi giocatori per 4 maglie, 6.5 se vuoi con Duan Zapata, però che ancora ovviamente dobbiamo scoprire al di là del capolavoro di Marsiglia. No, a me sembra veramente che il Napoli davanti, e un po' parlando con Benitez ho capito anche questa cosa, davanti assolutamente lo soddisfa. Callejon benissimo, Mertens benissimo, Insigne secondo me diventerà ancora più decisivo, qualche stronzolo in meno, ma insomma è un giocatore che gli piace molto. E poi dietro dietro ci sono dei margini, dietro io sono convinto che a gennaio faranno delle cose, perché insomma fra Cannavaro che è andato in involuzione continua, gli esterni che sono fatti male, il caso Giuniga che un tratto si fa male, Britos che comunque insomma è un buon difensore ma non è esattamente Thiago Silva, se c'è un luogo del calcio dove il Napoli De Laurentiis deve fare un ulteriore investimento, secondo me è quello. Lo farà, dici? Luca Valdiserri, per la Roma invece è un destino quasi opposto rispetto a quello del Napoli, che andrà a scornarsi a Torino, due squadre reduci da una settimana durissima di Champions League. La Roma invece avrà già giocato con il Sassuolo lì alla finestra. Sì, intanto deve affrontare il Sassuolo nella maniera giusta, che secondo me per esempio non è stata quella di Torino, però mettersi a fare le pulce a una squadra ne ha vinte 10 e pareggiata una, insomma è un po' ingeneroso. Stucchevole. Ma guarda, se ti devo dire, se io fossi come sono un tifoso della Roma, avrei preferito, piuttosto che lo scontro diretto Juve-Napoli, avrei preferito un bel, per dire, che ne so, Juve-Fiorentina e Napoli-Milan, no? Perché avrei avuto due inseguitrici stanche che affrontavano magari invece squadre che, sai, la Fiorentina gioca stasera, però con chi gioca, sì. Insomma, no? Invece così in qualche modo la doppia stanchezza si annulla, no? Cioè ne può cadere una, non ne possono cadere due, mentre questo turno di Champions è stato particolarmente faticoso. Io appunto, cioè, mi sembrava divertente far ribaltare il luogo comune, no? Il solito massimo risultato con minimo sforzo, sì, in questo caso invece il Napoli ieri se l'è dovuta giocare fino in fondo, si è dovuto impegnare. Io sono sicuro che se fosse stato sul 2-0 Higuain magari gli ultimi 20 minuti usciva, no? Invece così ha fatto tutti, ha fatto anche uno scatto al 90esimo per andare a rincorrere un avversario, pressarlo, che credo abbia lasciato anche molti tifosi del Napoli un po', no? In questo momento anche quelle piccole cose si pagano giocando così a ritmi folli, impegni così determinanti. Grazie, ragazzi. Attenzione al volo, anche ai paradossi, perché io mi ricordo il Napoli 2 anni fa di Mazzarri, che era una squadra completamente diversa, che non faceva turnover, che aveva i titolarissimi, e il paradosso di quella stagione, se la ricordate bene, è che il Napoli, che per una grande prima fase di Champions League, giocò benissimo in campionato fino all'inizio di dicembre. Poi da Novara a Napoli 1-1 con gol di Hanzik, in poi ebbe il momento di flessione proprio in concomitanza con la Champions. Quindi bisogna anche capire un po' come sono stati fatti i carichi di lavoro, e se la Champions League certe volte può rappresentare addirittura uno stimolo in più e dell'adrenalina questo, in più. Questo è verissimo. Non è così automatico, secondo me, che finché c'è la Champions perdi punti, poi ti rilassi. È sicuramente un vantaggio per Roma e Inter, per le rose che hanno, avere per tutto l'anno un impegno in meno. Questo grazie Pier, ci sentiamo domani. Grazie Luca Valdiserri. Ciao. Convocazioni aperte fino alle 15:20 800 24 00 24. A dopo. Tutti convocati. Tutti convocati. Siamo qui come ogni giorno fino alle 15:20, 800 24 00 24. Voglio leggervi un estratto dell'intervista che Gattuso ha rilasciato al mensile francese SoFoot, l'ho citata prima. Allora, su Zamparini, Gattuso, Dixit. Zamparini è un incompetente totale, mi chiamava in piena notte per rifare le formazioni ed è ovvio che può farlo. Come allenatore sono operativo 24 ore su 24, il problema è la sua incompetenza, non ci capisce niente. Inoltre è ipocrita e cattivo. Credo sia sotto pressione, che se potesse venderebbe per la crisi economica, ma la domanda è: chi comprerebbe il Palermo? Gattuso neanche per Silvio Berlusconi, dicendo: io l'ho votato non perché era il mio capo, ma perché credevo nel suo programma. Sono comunque piuttosto di destra e Alfano mi piace. Quando si parlava di calcio, Berlusconi non era affatto incompetente, a differenza di Zamparini, no? Ma non gli avrei affidato nemmeno una squadra di ragazzini da allenare. Oggi il Milan ha bisogno di una ristrutturazione e di una squadra competitiva. Si sta trascinando, servirebbero investitori stranieri. Cosa ne pensate? 800 24 00 24, numero verde. Altra dichiarazione che è di ieri, di Lapo Elkan, che ha definito Cristiano Ronaldo quel bulletto portoghese. Cosa ne pensate? E cosa ne pensate di queste parole, sempre di Lapo Elkan, su Juventus Napoli? Quello che sarà duro, secondo me, è sicuramente la partita di questo weekend, però la Juve ha dato dimostrazione di forza, di grinta, di cattiveria e soprattutto di squadra, con tutto l'affetto e il rispetto per il Napoli, che è la mia terza squadra, perché la prima è la Juve, la seconda è il Palermo, la terza è il Napoli. De Laurentiis, essendo comunque anche un amico, vinca il migliore e gli auguro ogni bene, sperando che il bene sia dalla nostra parte e non dalla sua, ecco. Maurizio da Milano, sa chi arbitra Juventus-Napoli? Non mi interessa, perché non... Bravissimo. Però okay, glielo dico lo stesso. Gianluca Rocchi. Rocchi. Bene. No, sono usciti oggi gli arbitri, gli do questa notizia. Giacomelli, Roma-Sassuolo, Fiorentina-Sampdoria, D'Amato di Barletta. Dica. No, volevo sapere, siccome che lei ha cominciato il programma chiedendo a Pardo del rapporto tra Barbara Berlusconi e Gagliani. Lei invece cosa ha visto di tanto sconvolgente? Perché io ho guardato... come anche Pardo, cioè, ha detto io non vedo niente di sconvolgente, vedo invece grande imbarazzo, vedo invece grande neanche imbarazzo. Ho visto io, no? Si sono anche parlati, no io almeno ho visto Canale 5, non so che cosa ha visto lei, si sono anche parlati, quindi... Io ho visto Sky, ma questo conta poco. Fatto sta... che si vuole cercare cose, no, che non... ma io no, ma non cerco anche, niente anche, anche cose che si vedono, No, ma io non cerco niente, Maurizio. Io non cerco niente. Io leggo e sento le parole, e mi posso dire che mi sembra strano, considerato come il Milan e qual è sempre stata la politica del Milan, questo pubblico bucato dei panni sporchi in piazza. Posso dirlo? Certo, però non si può dire che ieri, guardando la televisione, si è visto che c'è qualcosa che non va. Ma questo insomma, no. Io ho letto grande imbarazzo, ho visto, non ho visto che si sono parlati, non ho visto nessun gesto d'intesa, insomma, a me è sembrata una situazione imbarazzante, anche perché onestamente non poteva essere altrimenti, dopo che Lady Barbara aveva appena detto che questo Milan andava cambiato, a cominciare da quelli che fanno il mercato, cioè da Adriano Galliani. Quindi insomma, mi sembra anche nella logica dei fatti, no? Dopo dichiarazioni di questo tipo non poteva che esserci, me lo consente, almeno un filo di imbarazzo. Daniele, provincia di Ferrara. Sì, dottor Gente, buongiorno. Ciao. Mi sento, volevo dire una cosa, tanto mi scuso con la signorina perché ho detto che volevo parlare delle coppe, ma non è vero. Non è voglio vero. Parlare di un'altra cosa. Dica. Io sono un interista e io ascolto tutti i giorni le vostre trasmissioni. Lei pensa che io sia anti-interista, mi dica la verità. No, aspetti, prima vi faccio dire una cosa che poi lei mi tutto il tempo per dirmelo. Intanto volevo fare i complimenti, io ascolto tutti i giorni la sua trasmissione. C'è solo una cosa che a volte diventa davvero imbarazzante, cioè io ho provato negli ultimi mesi, in un mese e mezzo, lei ha parlato per il 38,50% del Milan, per il 3,80% dell'Inter, per il 7,50% della Juventus. Ha fatto percentuali. Per carità. No, io rispetto tutto, però anche quel senso di ironia sgradevole quando parla dell'Inter, davvero, guardi, io la rispetto molto perché lei fa un lavoro anche difficile, se vogliamo. Però, onestamente, a volte ci rimango male. Ma perché dice che sono, ironico? Dove sta l'ironia? A parte il fatto che... Guardi, ma perché sono ironico? Presa. Veramente ha un modo di dire, magari non se ne accorge, per carità, poi non credo neanche che sia una persona cattiva, tutt'altro, però veramente mi credo, quando parla dell'Inter le sue parole grazie per dirmi che non sono cattivo, ma una sintonia di proprio, non so, di un antinterismo, non so perché, però io non so, ma perché non so nemmeno io. Allora, posso, mi permette, la ringrazio per avermi detto che non sono cattivo. Quanto all'ironia, io non la leggo, dico semplicemente quello che penso. Quanto al Milan, mi sembra che sia l'argomento di questo inizio di stagione, tutto compreso, polemiche comprese, eccetera, eccetera. Mi ricordo di aver detto di recente, di aver fatto di recente l'ironia sull'Inter, ma la farò, perché mi diverto anche, così come la farò sul Milan, sulla Juventus. Poi mi diverto molto a leggere i messaggi, e sei anti-interista, e sei filo juventino, e sei milanista. Questo mi dà la misura del fatto che forse riesco a stare nel mezzo, cosa che reale. Sergio da Milano, sì, vuole sgridarmi anche lei, faccia pure, mi sgridi pure, non no, c'è no, problema. No, io non voglio assolutamente sgridare. No, ma io mi diverto anche di più. No, No, voglio dire solo una mia considerazione. Secondo me basta. Balotelli veramente non... non lo sopportiamo. Io personalmente, perché non voglio dire che io sia la verità assoluta, ma niente, secondo me vendiamolo. Che cosa accidenti dobbiamo fare? Cioè, non fa la squadra, non è un giocatore che ti cambia la partita, è un giocatore che in ogni caso è indisponente. Cioè, cosa ce ne facciamo di una fare così? Ma non lo so, magari qualche gol l'anno scorso l'ha fatto, no? Nella rincorsa, qualche gol l'anno scorso l'ha fatto. Poi che sia un talento da maneggiare forse con troppa cura, su questo lei ha ragione. Però io parlo sempre del numero 45 del Milan in termini esclusivamente calcistici, per quello che fa in campo. Quello che fa fuori non mi interessa. Io trovo semplicemente molto strana questa situazione che si è venuta a creare. Sembra proprio in atto un'opera di riabilitazione di questo giocatore. Anche Montolivo ieri sera ha detto sì, è vero, ma può fare di più, deve darci di più, eccetera eccetera. In tutta onestà, a me sembra il giocatore, insieme a Kakà, indiscutibile. Poi vediamo quanto dura su questi livelli, il talento di Kakà ovviamente fuori discussione, però mi sembra ampiamente il giocatore con maggior talento nel Milan. No? C'è più? Sergio? No, ci sono. Pronto? No, eccomi qui. No, dicevo, io adoro Kakà, l'ho sempre adorato e ritengo che questo sia l'unico acquisto azzeccato di Galliani quest'anno. Però Balotelli non dimostra la stessa, come dire, lo stesso affetto per la squadra. Parlare di affetto mi sembra tanta roba. Kakà sicuramente ce l'ha per il Milan. Kakà sicuramente ce l'ha per il Milan, questo è indiscutibile. Però, ripeto, mi sembra che un peso Balotelli l'anno scorso ce l'abbia avuto nella rimonta del Milan, mi sembra che abbia discretamente cambiato le cose l'anno passato. Secondo me è un giocatore a cui bisogna dare fiducia quasi incondizionata per vederlo rendere al meglio. Magari questo è difficile, io capisco che possa essere difficile, capisco che possa essere difficile anche per i compagni di squadra. Però fino a un mese fa eravamo qui a dire che il Milan si affidava esclusivamente a lui. Mi sembra che la situazione non sia molto cambiata, mi sembra anzi di poter leggere in questa parola discendente della condizione del numero 45 anche forse una spiegazione dei grandi problemi del Milan. Allora, adesso voglio darvi un'altra notizia di cronaca che riguarda i risultati dell'NBA di basket. Perché ha giocato Berinelli nella notte, non benissimo, partita in quintetto, 31 minuti, 4 punti, ma San Antonio ha vinto su Phoenix 99-96, Boston ha battuto Utah, New Orleans ha vinto a Memphis, un sacco di partite, Milwaukee ha battuto Cleveland, eccetera eccetera eccetera. Non mi sembra siano un po' i risultati entusiasmanti, però voglio farvi risentire un frammento storico, cioè i primi due punti di Gigi D'Antoni nella NBA. Andre with a rebound. He has five boards and there goes way up to Gigi D'Antoni and a goaltend is going to be called on Mahimi. So Luigi gets his first hoop as a Piston. Girano su internet gli incredibili clip filmati da un compagno di squadra di D'Antoni in cui lui si mette in posa da messia con quella barba e quei capelli lunghi. Giuseppe Milano. Sì, salve. Lei è anti-interista? No, assolutamente. No, cos'è? Io sono anti-milanista. Milanista. No, sono milanista da anni. Però il discorso, secondo me... Vuole vendere il 45? Vuole vendere il numero 45 anche lei? No, io non discuto i giocatori. Io discuto la dirigenza. Ok, devo dire grazie al buon Silvietto che in questi 25 anni ci ha fatto andare veramente alle stelle. Adesso, se non ha più intenzione, non c'ha più voglia di tirare avanti la baracca, si ritira. Fine, stop, lo ringraziamo. Facciamo venire altri capitali est, adesso c'è la moda di far venire... Sì, il problema poi è trovarli, perché non, quello non è mica semplice, non è che c'è un toir per tutti, insomma. Quindi lei la pensa come Gattuso, prendo atto. Grazie Giuseppe, grazie a tutti. Franco Piantrini, autore di questo programma, Roberto Scatritti in regia, ci sentiamo domani, tutti convocati alle 2. Oggi Carlo ha pronunciato il nome di Mario Balotelli 4 volte.